8. La società Leron, poi Gnome et Ron. Louis Verdet, ingegnere diplomato alla Scuola di Arti e Mestieri, a partire dal 1912 fece concorrenza ai motori Gnome con un motore rotativo di propria progettazione. Il Leron. È questo il motore esposto davanti a voi. Con caratteristiche tecniche simili a quelle dell'Omega, risultava tuttavia più affidabile e consumava meno olio e carburante. Questa rivalità continuò fino al 1915. In quell'anno, lo Stato francese chiese alla società Gnome di acquisire Leron per formare la società Gnome et Ron, della quale Louis Verdet divenne direttore generale. I motori presentati alle vostre spalle mostrano le evoluzioni di potenza che ebbero inizio allora. La potenza dei motori fu quadruplicata in 5 anni, superando i 200 cavalli durante la Prima Guerra Mondiale. Esempi di aeroplani equipaggiati con questi diversi modelli sono raffigurati sull'affresco a destra. Da 1000 motori all'anno nel 1914, la produzione passò a 1000 motori al mese nel 1918. In totale, furono prodotti in Francia oltre 20.000 motori Gnome et Ron. Sommando i motori costruiti su licenza, la società motorizzò quasi un terzo di tutti gli aerei impiegati nella Prima Guerra Mondiale. Alla fine di questa galleria, sulla sinistra, si può notare anche il motore ispano-suizza a 8 cilindri a V, principale concorrente di Gnome et Ron. Insieme, queste aziende motorizzarono più della metà degli aerei della Grande Guerra.